Nell'uomo e i suoi gesti, Desmond Morris fa risalire agli anni 60 e dai primi anni 70 una ben determinata diminuzione del tono muscolare nelle posture dei giovani. Del tono muscolare, sì. In particolare la sua attenzione, diciamo, di zoologo dell'umano si concentra sullo stravaccamento, ovvero su un certo modo di sedersi un po' ovunque, grazie anche alla diffusione epidemica dei jeans, allargando le gambe. Il fenomeno ha ugualmente interessato entrambi i sessi, ma nelle donne che negli anni 50 dovevano sottostare a un severo governo delle proprie gambe, che quasi mai dovevano disunirsi, tanto per esempio che sul sellino della motocicletta sedevano di traverso, no? Beh, nelle donne, dicevo, il fenomeno è risultato più vistoso. Comprensibile dunque che nell'assumere o meno questa nuova postura, consapevolmente o inconsapevolmente, si finiva con il mettere in gioco tutto un sistema di valori. Comprensibile anche allora che oggi, praticamente 30 anni dopo, quando da noi nessuno ci fa più caso, il fenomeno si ponga in termini di scontro ideologico in un paese che per povertà e stato di arretratezza in cui è stato costretto dal fenomeno era stato a lungo immune. Se ne parla in Nigeria, e protagoniste principali a quanto pare sono le conduttrici di mototaxi. La direttiva ufficiale odierna permette alle conduttrici di assumere la posizione a cavalcioni e le organizzazioni femminili nigeriane ribattono che la novità sembra loro inaccettabile. Le motocicliste, secondo loro, dovrebbero continuare a guidare le moto sedendosi di lato, ciò al fine esplicito di evitare alle donne l'assunzione di pose ritenute oscene. Siamo di fronte al consueto scontro tra forme della tradizione e innovazioni tecnologiche. Antichi tabù, si pensi alle questioni mediche o a quelle genetiche, antichi tabù in grazia di qualche invenzione possono venire superati, sì, e i casi sono due. O si è in grado di accettare la cosa o si ricorre a qualche forma di repressione per opporvisi. Quando a comandare le grandi manovre è il capitale, solitamente, prima o poi, non c'è più repressione che tenga. E le tradizioni, per quanto ben fondate siano, vanno a farsi benedire. Chi pensi che la cosa, che questa cosa o altre possano andare diversamente, allora quando in gioco è la morale di un popolo intero, si illude. Anche per la divaricazione delle gambe femminili, presumibilmente dunque in Nigeria è solo questione di tempo. Farebbe piacere comunque sapere che qualche paese in cui si affrontano con esplicitezza e coraggio le questioni morali c'è ancora. Farebbe piacere se dalla stessa Nigeria non ricevessimo anche altre notizie. Per esempio che un'intera tribù di 1800 persone è stata sterminata per liberare una zona in cui una compagnia anglo-olandese doveva iniziare le trivellazioni in cerca di petrolio. Questa compagnia era la Shell, i cui distributori allignano pimpanti e deroganti anche a casa nostra. Sembra che abbia foraggiato l'esercito nigeriano perché si desse da fare a seppellire gli indigeni riottosi. Il che dimostra che, almeno in fatto di contraddizioni, i paesi più poveri e arretrati non sono secondi a quelli più ricchi e avanzati. Così come da noi, una giustizia che da anni si basa sul pentitismo ha il coraggio civile di dettarci la morale inaugurando i suoi cosiddetti anni giudiziari, alla stessa stregua in Nigeria c'è chi resiste sulla linea del piave della divaricazione delle gambe delle motocicliste, ma digerisce benissimo in compenso una strage di Stato perché i padroni bianchi sborsino oggi quei quattrini che domani significheranno altra povertà ed altra arretratezza. Agli ultimi mondiali di calcio, a pochi minuti dalla fine, la Nigeria stava sorprendentemente battendo i cosiddetti azzurri della nostra nazionale di calcio. Una sciagurata leggerezza di un giocatore nigeriano in area di rigore ha consentito a Roberto Baggio di segnare un gol salvifico senza il quale la nostra amata patria sarebbe rimasta col sedere per terra. Alla fine, dopo tempi supplementari perfettamente idonei ad un altro gol del medesimo Baggio, la Nigeria è andata a casa. Roberto Baggio è sponsorizzato a suon di miliardi da una nota compagnia petrolifera. Non vorrei che si fosse trattato di un episodio dello stesso genere dell'altro. Sneaking across all the neighbors' borders. Now I'm